Sura dell'Alba, capitolo 89 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 30 ayat ed è scesa dopo la Sura 92, la Sura Al-Lail. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, io, Allah, lo giuro, sull'alba, su 10 notti, sul pari e sul dispari, sulla notte quando se ne va, forse che in questo non c'è un giuramento per un dotato d'intelletto, non hai visto che cosa fece il tuo Signore agli Ad, i Ram, dalle colonne, a cui nulla di simile fu creato nel territorio, e ai Tamud, i quali scavarono le rocce nella valle, e a Faraone, quello dei piuoli, i quali prevaricarono sul territorio accrescendo in esso la corruzione? Per questo il tuo Signore li colpì con lo staffile di una punizione. In verità il tuo Signore certamente è in agguato. Quanto all'uomo, quando il suo Signore lo mette alla prova, onorandolo e beneficandolo, egli dice: «Il mio Signore mi onora per i miei meriti». Quando invece lo mette alla prova con la scarsità del necessario per vivere, egli dice: il mio Signore mi fa un affronto. Però non è così. Invece sono loro che non onorano l'orfano, che non si sollecitano l'un l'altro a dare cibo al povero, che divorano l'eredità con ingordigia e amano la ricchezza con un amore sfrenato. Però non è così che si ha da essere. Quando la terra sarà frantumata e ridotta in polvere, il tuo Signore giungerà con le schiere degli angeli schierati e sarà avvicinato quel giorno l'inferno. Allora l'uomo si ricorderà del suo dovere di obbedire ad Allah. Ma a cosa mai gli servirà quel giorno questo ricordo? Egli allora dirà: povero me, avessi provveduto in tempo alla mia vita futura. Nessuno al mondo punisce con la sua punizione di quel giorno, e nessuno lega con il suo legamento di quel giorno. O uomo, che hai realizzato l'equilibrio interiore, ritorna soddisfatto al tuo Signore, che di te si è compiaciuto. Entra nel novero dei miei servi, entra nel mio paradiso.